Para analisar as relações Brasil-Itália, Domenico Silipoti. Este governo foi colocado lá para resolver alguns assuntos econômicos que a hoje não conseguimos resolver. La Zanzara. La continuità con lo sforzo riformatore, cominciato 19 anni fa, è ora in un pericolo serio. Una coalizione di sinistra che vuole tornare indietro alle logiche di centralizzazione pianificatrice, questa coalizione chiede di governare con uno scuolo di... Sta al Popolo della Libertà, al segretario Angelino Alfano, a una generazione giovane che riproduce il miracolo del 94 di combattere una seria e impegnativa battaglia per fermare questa deriva pericolosa. Prima della condanna di questa sera, che ci fa precipitare, per quello che riguarda i commenti, caro Parenzo, ad un clima che noi tutti pensavamo ormai scomparso. Pensavamo che fosse finito il clima, gli uni contro gli altri, la giustizia, eccetera, eccetera. Invece dobbiamo sentire, per esempio, il portavoce, uno dei portavoce del PDL, il deputato D'Alessandro, dire che i magistrati meritano l'ergastolo. Oppure che Fabrizio Cicchitto, dobbiamo sentire da Fabrizio Cicchitto che è un tentativo di omicidio politico, quello dei giudici di oggi. Prima Ferrara era stato però quasi preveggente. Sentiamolo, Berlusconi, D'Alema e io ai Giardinetti, bel luogo. Ma lei ce li vede in panchina ai Giardinetti Berlusconi e D'Alema? Francamente sì, io vedo tutte le persone sopra i 60 anni, me compreso, candidati sicuri per i Giardinetti. D'altra parte i Giardinetti sono uno dei luoghi più belli delle città e non si ingombra troppo il cammino delle generazioni più giovani. La Santanchè già dice, caro Parenzo, che bisogna che Berlusconi torni in campo, perché è l'unica bandiera del garantismo, Berlusconi, dopo la sentenza di oggi. Sei felice per la sentenza di oggi, caro Parenzo? Visti gli articoli 143 e 144 del codice di procedura penale, condanna Berlusconi Silvio alla pena di anni 4 sì, di ma retinzione. Sentiamo l'originale però, imbecille, sentiamo l'originale. Parliamo del popolo italiano. Tribunale condanna a Gramma Franca alla pena di anni 3 di reclusione, Berlusconi Silvio alla pena di anni 4 di reclusione, Galetto Cappella alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione, Lorenzano Daniele alla pena di anni 3 mesi 8 di reclusione, nonché tutti al pagamento delle spese processuali. Sempre prima della sentenza, Sandro Bondi aveva detto: momento epocale, Berlusconi favorisce il cambiamento. Io penso che siamo in un momento epocale della storia politica italiana e penso che la scelta di Berlusconi, il gesto di Berlusconi, è un gesto che favorisce il cambiamento. Bello risentire queste voci del passato. C'è dell'altro oggi, c'è dell'altro. Ma poverato, non mi ricordavo neanche più la voce di Bondi. Hai fatto bene, ogni tanto hai fatto bene a mandarlo. Aspetta, perché... Verdini, mi ricandido, senti qui. Verdini, mi ricandido. Sempre prima della sentenza, su Berlusconi, ma non è che cambi molto per Verdini, comunque mi ricandido. Voglio capire se secondo voi una persona indagata in vista delle prossime elezioni politiche non dovrebbe fare un passo indietro. È un'opinione, la sua. No, è una domanda. Se secondo lei non... Assolutamente no. No. Assolutamente. Parliamo con lei che di procedimenti, lei che insomma di procedimenti ce n'ha parecchi, ora senza che facciamo tutto l'elenco. Sì. Non vogliamo entrare nel mezzo, però lei si ricandiderà. Certo. Non daremo questo segnale. Questo noi. Cilipoti sfida la Cantone, la sindacalista Cantone della CGIL. Io sono come Saragat. Senti, ti prego, senti. Io sono coerente e ho fatto una scelta nell'interesse del paese, sì, e non nell'interesse di bottega. Lei ha fatto una scelta nel suo interesse. Una mia scelta, però la mia scelta. Scusi, non voglio parlare di questo questa mattina. Mi faccia fare la riflessione. Voglio parlare dei pensionati. Lei non stanno male. Lei ha fatto, un'accusa. Sia buona e ascolti sono anche quello che devo dire. Guardi, io ho fatto una scelta, che una similare scelta è stata fatta prima da me da un signore che portava un cognome Saragat. Nel 47, che ha scelto l'interesse del paese agli interessi di bottega. E non do spiegazione. La vogliamo sentire una voce di Rubi Rubacuori? E sentiamola, dai, su, sentiamo. Che a Berlusconi piacciano, le donne lo sanno tutti. Berlusconi è pazzo di me, che fosse pazzo di lei, un po' è possibile, altrimenti. Il rischio di prendersi a casa una ragazzina. Credo che Berlusconi lo sappiano tutti gli italiani che è pazzo per le donne, non era solo pazzo di me, perciò quello si sa. E infine, no, ma naturalmente c'è molta carne al fuoco, aspetta, che vuoi dire? No, dico che la cosa più importante è che la signora Rubi Rubacuori in quella intervista ieri ha confermato sì, ad Arcore si faceva sesso. Vabbè, ma stai tranquillo, Ma stai tranquillo, ma chi se ne frega se si faceva sesso o no? Della no, Valle. Punto, ma che punto? Ma quale? Ma non è che è un reato il sesso? No, Marchionne, un mago Telma delle quattro ruote, della Valle con Otelma infuriato. Bellissimo. A casa nostra purtroppo ci ritroviamo un mago Telma delle quattro ruote che fa una dichiarazione al giorno, non fa una macchina neanche se gli spari, e gli operai ci dovrebbero andare di merda. .800240024 comincia così la zanzara. In primo piano naturalmente la condanna di Berlusconi a 4 anni, di cui 3 prescritti, e l'interdizione dei pubblici uffici per 3 anni. Però è con noi, non so se hai in mano, cari ascoltatori della zanzara, caro Parenzo, non so se hai in mano la Madonna, la statua della Madonna di Fatima. No. È proprio lui, Marione Borghezio, buonasera. Buonasera e buona padania a tutti. Ancora con sta padania. Brutti miscredenti. Ma che miscredenti, su? Che novità ci sono? È sempre bloccata da Amsterdam? No, le novità sono ottime perché la Madonna è riapparsa. Come è riapparsa? In che senso? Mercoledì sera finalmente la KLM ha restituito dall'episodio sì. Ancora piuttosto misterioso e forse eloquente dal punto di vista misterico della cioè scusi qualcuno della... scusi Borghezio, qualcuno ha fatto apposta a non far arrivare la statua della Madonna a Strasburgo? No, ma io non sono complottista, ma credo fermamente dei segnali superiori e dunque che Fatima continua a dare. E forse non dimentichiamoci che le apparizioni corrispondono alla rivoluzione russa, non dimentichiamoci. Sì, beh, certo. La data dell'attentato a Papa sì. ma scusi Borghezio, scusi un attimo, al di là di queste cose lei naturalmente no, io lo leggo come un segnale che la Madonna proprio dai tecnocrati sì. Mondialisti dell'Europa è stata fermata diciamo non ci vuole venire lei perché questa Europa ma lei ci crede davvero a queste cazzate, Borghezio, sì o no? No, non sia indelicato. Beh, indelicato. Indelicato, la statua della... Scusi un attimo, Borghezio, perché la statua... Le profezie di Fatima si stanno avverando una dopo l'altra e io sì. credo che... Ma riguardano anche Berlusconi, le profezie di Fatima? No. Le profezie di Fatima dovrebbero richiamare tutti, a cominciare sì. diciamo dagli responsabili politici. Scusi, ma perché serviva la statua di Fatima al Parlamento europeo? No, questo qua me lo spieghi in parole però comprensibili. Non è chiaro, l'iniziativa intanto non è politica, semmai è metapolitica. Metapolitica, metapolitica. Voi sapete che esiste un'associazione sì. che difende e promulga il messaggio della Madonna di Fatima. Perché volevate portare la Madonna lì? Perché c'è bisogno dell'intervento del Papa? Scusi. Il quale dice che il quale suggerisce, sì. Io ho raccolto questo suggerimento in un, insieme al collega Fontana, che sì, è certo. Capo delegazione, l'abbiamo già detto, sì. Al di là della politica, chiediamo ai parlamentari europei di sottoscrivere una dichiarazione scritta di appoggio alla richiesta che la richiesta quale? Viene fatta da coloro che vogliono realizzare il messaggio di Fatima, cioè la consacrazione della Russia alla Madonna. Ma scusi, perché la consacrazione, perché la consacrazione della Russia alla Madonna dovrebbe cambiare i destini dell'Europa? È imperscrutabile nelle richieste direi ultimative, perché questo messaggio sicuramente si connette al segreto. Però, segreto. Ma Borghezio, noi siamo confusi, non capiamo più nulla. Io voglio capire una cosa: perché era così importante portare questa statua? Questa statua in difesa della Madonna di Fatima al Parlamento europeo? È un simbolo, è la statua che è stata benedetta. Ma in che modo si può salvare dall'Europa? In che modo si può salvare l'Europa con la statua della Madonna di Fatima, dottore Borghezio? No, più che altro bisogna professor Borghezio. Perché le previsioni sono apocalittiche: si parla di guerra, si parla di crisi economico-finanziaria. E allora? A caso tutto si sta avverando, la crisi economico-finanziaria è sotto gli occhi di tutti. Cioè lei mi dice che solo la Madonna di Fatima e un intervento del Santo Padre possono salvare l'Europa. Io, e chi lo dice? Lo dicono le profezie. Ah, le profezie. Allora. Le profezie. Noi siamo miscredenti fino in fondo, Borghezio. Vabbè, ognuno è diritto, siamo in libertà, ognuno è diritto di pensare quello che crede, però io penso che i segnali convergenti che stanno arrivando, venti di guerra, pensiamo all'Iran, allora? Pensiamo che cosa sono questi segnali? Economico finanziario mondiale, certo, non fanno prevedere niente di buono. E d'accordo, quello lo sappiamo, non è che c'è bisogno della Madonna di Fatima. Ma io credo che i credenti siano legittimati a dare ascolto a questo insegnamento. Scusi, mi dica la verità, però un po' da leghista, torniamo nell'ambito della Lega e della politica, no, Borghezio. No, io separiamo bene i due discorsi. No, aspetta, sì, separiamoli. Mi dica la verità, torniamo al Borghezio vero. A voi ormai della condanna di Berlusconi non ve ne frega? Niente. Ma sa, io personalmente non sono un marabaldo. Però, a voi della Lega ormai della condanna di Berlusconi non me ne frega nulla, diciamola tutta. No, io non sono un marabaldo e quando vedo un uomo politico che ha avuto un grosso rilievo politico, cioè allora? Berlusconi colpito e cadere, sono l'ultima persona che gli dà una pugnalata. No, quello d'accordo, però in fin dei conti è ormai un non problema. Non è un vostro problema. Penso che si sia conclusa una fase storico-politica. Vabbè, questa è l'analisi che fanno tutti. Di prendere atto e devo dire che... Anche qui c'entra Fatima, questo, no? Con questo passo indietro sì. È uscito di scena molto bene. E quindi di questa fase do un giudizio positivo. Torniamo subito dopo il traffico. Borghezio, non mi sia diplomatico su questo. Sta Madonna di Fatima può veramente... Innanzitutto sta... tutti più buoni. Ma la statua dov'è? E finalmente è tornata nelle mani di chi? Ovviamente del padre Gruner, dell'associazione, quindi sì. di padre Gruner. Ma che ne so. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. E abbiamo fatto una bella punturina anche al signor Borghezio per questa storia della Madonna di Fatima. Noi non siamo miscredenti, vero Parenzo? Cioè siamo profondamente rispettosi. Ma per carità, anzi, talmente rispettosi che riteniamo che lì c'è stato un sequestro della Madonna. Ma comunque questo voglio dire... Caro Borghezio, non si può adesso portare al Parlamento europeo una statua della Madonna pensando di risolvere tutti i problemi dell'Europa, va bene? Questo qua... Ma fino adesso quelli che la sanno lunga... che sono amici vostri in Europa, che comandano in Europa, hanno peggiorato la situazione. Ma che amici no? E invece la può risolvere la Madonna? Ma io, la speranza è l'ultimo a morire. Io penso che sicuramente farà del bene. E soprattutto farà del bene quando prossimamente la porteremo a Mosca, perché pure questa nuova idea Cioè, andate a Mosca, non ci siete riusciti a Strasburgo, andate a Mosca. Secondo me ci andrà più volentieri forse a Mosca, perché sulla Piazza Rossa adesso c'è una grande chiesa ortodossa in cui tutti i giorni si celebra. Ma scusi, che va a fare a Mosca? Che va a fare a Mosca? È più cristiana Mosca di Strasburgo e di Bruxelles, almeno del Parlamento di Strasburgo e di Bruxelles, delle istituzioni europee. Forse c'è più fede a Mosca, naturalmente non nella Mosca del potere politico, che non in queste istituzioni europee totalmente scristianizzate. Totalmente scristianizzate. Perché ricordiamoci che la bandiera europea ha le 12 stelle proprio in onore della simbologia mariana. I colori azzurro della bandiera europea e le 12 stelle che fanno sono quelle della Madonna. Con tutto quello che succede, caro Borghi, ma perché voi vi interessate alla statua della Madonna di Fatima? La statua della Madonna di Fatima. I pericoli del mondo, i venti di guerra, la crisi economico-finanziaria, tutto il peggio. Lo volete risolvere con la statua della Madonna di Fatima? Lo risolviamo invocando la protezione spirituale che oggi è particolarmente necessaria e importante. Scusi un attimo, ma domani lo sa che è un anniversario particolare? Domani? Borghezio? Non lo capisco. Domani lo sa che è un anniversario particolare? Sì. Domani in che senso? Domani è un anniversario. La marcia su Roma? Sono i 90 anni della marcia su Roma. Un grande evento. In che senso, scusa? Un grande evento. Io rivolgo un saluto di simpatia a quelle persone che domani si riuniscono e che ricordano un evento che ha segnato una data importante nella storia e senza fare naturalmente dell'apologia. No, però sanno una cosa importante, che la storia è storia e quindi fu un grandissimo tutti gli evento. Eventi sono importanti, certo. E anche quell'evento ha segnato profondamente. D'altronde, se non ci fosse stato quell'evento, non ci sarebbe stata la conciliazione fra Chiesa e Stato, che ha risolto un annosissimo problema dei rapporti nel nord di un paese cattolico come l'Italia, fra la Chiesa e lo Stato. Lei. Questo è indubbiamente un merito che dal punto di vista storico, senza alcuna apologia, va riconosciuta. Assolutamente. Va riconosciuto. Fu un evento positivo, un evento positivo. Perché non ci va? La conciliazione è stata. No, dico la marcia su Roma. Dico. È stato un evento storico. Sì, no, un grande evento. Positivo per lei. Positivo per lei, dato queste premesse. Sentito per un giudizio. Cioè, rapportato, se facciamo un paragone con i tempi di oggi, fu un evento positivo. Mi faccio rispondere, se mi fa la domanda. Sì. Sentito per un giudizio sulla rivoluzione russa, sulla rivoluzione francese del 1789, Chuen Lai ha detto: è troppo presto per dare un giudizio. Adesso non esageriamo. Io dico, tra 200 anni si potrà dare un giudizio. Oggi è prematuro. Ma come prematuro? Troppo coinvolti nell'attualità politica, nelle conseguenze. Comunque non fu una cosa disastrosa per l'Italia quella marcia su Roma. Certamente in quel periodo fu una cosa necessaria. Fu una cosa necessaria. Una cosa necessaria. Scusi un attimo, Borghezio, ma perché non va allora? Dove? I 90 anni della marcia su Roma. A Perugia. Perché io ho già la camicia verde. Ma che c'entra? Se lei non ce l'avesse verde, però se la mettere. No, io sono uno di quei milioni di connazionali padani italiani che hanno avuto il padre e il nonno che ha portato dignitosamente la camicia nera. Però a differenza di milioni di italiani non me ne vergogno. No, anche lei la metterebbe nera se non ce l'avesse verde. No, io ce l'ho verde, perché dovrei mettermela nera? No, assolutamente. E non se ne vergogna. Ma a casa ce l'ha ancora la camicia nera? No, a casa non ce l'ha, credo. No, non ce l'ho, perché purtroppo quella del papà non. Ma non ce l'ha qualche cimelio a casa, la del ventennio, lei, Borghezio? No, niente. Ce l'ho. Scusi, le elezioni in Sicilia servono o non serviranno a nulla? Alla Borghezio. Lei introduce un argomento interessantissimo. Servono o non servono? Nel nostro paese siamo qui ad aspettare cosa succede in Sicilia. Quello l'abbiamo già detto. Questo fa capire bene chi comanda nel nostro ma paese. Servono o non servono queste elezioni alla fine? Oppure bisognava. Chiunque vinca. Bisognerà vedere chi la massa decide che deve vincere. E quindi lo sapremo dopo le elezioni, lo sapremo. Cioè, chiunque vinca sarà deciso dalla mafia. Ma scusi, quando si vince a Palermo un tizio e si dice ha vinto perché l'ha votato la mafia, poi vince uno dello schieramento opposto e chi l'ha fatto vincere? La zanzara è quell'odioso insetto. che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Siamo qui alle 19:19 alla Zanzara su Radio 24 con Davide Parenzo in collegamento da Roma, grandi ospiti tra poco, già uno. No, da dove sei? Ah, Verona, sì, sei a Verona, è vero, sì. Sei da Verona. Verona, la città di Romeo e Giulietta, la città dove il grande Shakespeare ambientò una delle più grandi opere della letteratura. E io di questo vorrei parlarti oggi. No, no, non voglio parlare, no, di questo, c'è, ecco, da parlare della vicenda di Berlusconi. Polverini, però, prima, il presidente, ecco, della Regione Lazio. In auto blu è una limitazione della mia libertà personale. Senti. Arriva, con molta calma, ma arriva. C'è chi mi accusa di aver comprato un paio di scarpe con la macchina di servizio. Beh, intanto voglio dire a questi signori che la macchina che ti viene assegnata insieme a degli agenti di scorta non è una macchina che tu usi per cose private e non è un bene pubblico a tua disposizione. Purtroppo è una grande limitazione della libertà personale alla quale io sono sottoposta dal 2008. Non compro solo le scarpe, ma anche cose intime in farmacia. E quindi, cari signori, non devo comprare soltanto le scarpe, ma anche, e mi rivolgo ad una platea più femminile, se vado in farmacia devo comprare con gli agenti di scorta quelle che sono anche questioni molto intime di noi donne. Massimo Corsaro, un esponente importante del PDL, ex AM. Aspetta, aspetta, Massimo Corsaro, esponente, no, è solo Polverini, sta dicendo semplicemente che la scorta è una limitazione della libertà personale, e questo, vabbè, no, ci può anche stare, che lei la usa, è costretta a usarla anche per andare a comprare in farmacia cose intime. Poi non è detto naturalmente che la scorta debba commettere per forza delle infrazioni, No, ma non per si capisce perché un presidente di regione deve avere la scorta. Vabbè, quello non lo decide lei, magari lo decide il Ministero degli Interni perché ha ricevuto delle minacce, eccetera. Corsari, condannati in primo grado, devono stare fermi un giro, e dunque anche Berlusconi adesso. Uno dei gesti che forse sarebbe giusto assumere in modo concorde è per esempio immaginare che se si è condannati, magari anche in primo grado, come potrebbe essere nel caso di Vendola, per reati che sono connessi all'esercizio di una pubblica funzione, si debba star fermi un giro. Ah, solamente la pubblica amministrazione, vabbè, mille distinguo, Prima del TG3, Scilipoti combatte con un giornalista dell'Espresso, sentite. Cioè, ci sei anche tu di mezzo, Parenzo? No. Sì, senti, senti. Ma io ho tutto quello che lui odia, basta leggere dove scrive, io sono stupido, mediocre, finocchio, cioè tutte le cose che lui scrive sui siti dei suoi amici. No, scusi, parola, lei scusi. Ha detto di Davide finocchio. Parenzo, che tra l'altro lavora per io, aggiungo io delle cose che può dire. Mi sembrava figlio di due omosessuali per le cavolate che diceva. Ma lo capisco, sto dicendo che lo poteva dire, anche quello, tanto sappiamo cosa pensa lei. Detto finocchio quando io questa parola non l'ho mai utilizzata. Sì, ma la poteva dire, perché sappiamo. Ma è inutile che se ne va, rimanga e parliamo delle cose reali. Titoli del TG3, il primo sarà su Berlusconi, sarà Sandir. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Processo per i diritti TV, in primo grado 4 anni, di cui 3 condonati per indulto, interdizione dai pubblici uffici per Berlusconi, assolto con falonieri, l'ex premier, sentenza politica intollerabile, accuse fuori dalla realtà, Di Pietro la verità è venuta a galla, la notizia sui siti web di tutto il mondo. Pressing del governo sul voto nel Lazio, Polverini a gennaio o febbraio, Lombardia dimissioni del Consiglio regionale, elezioni tra dicembre e gennaio. L'ex presidente della provincia di Milano, sotto accusa per tangenti, annuncia il ritiro dalla politica, tornerà a fare l'insegnante nelle scuole medie. Legge di stabilità nel mirino dei partiti, stop ai tagli in commissione, bocciata l'operazione Cieli Bui, risparmio sull'illuminazione pubblica. Terremoto del quinto grado Richter, tra Calabria e Basilicata, una vittima per infarto, danni e tanta paura, uno sciame sismico lungo 2 anni. Timori per il maltempo in Liguria, un anno dell'alluvione che devastò Genova, allerta 2 nello Spezzino e già sfollate 200 persone. Zanzara! C'è una zanzara tigre Ed è con noi uno degli avvocati presenti in Parlamento, anche se non è mai stato avvocato di Berlusconi, Maurizio Paniz. Buonasera. Eccomi, buonasera. Come sta? Come sta, caro Paniz? Diciamo bene, quando c'è la salute, come si dice, dobbiamo essere solo contenti. Mi dica una cosa, avvocato Paniz, ma lei ha l'ambizione di tornare in Parlamento nel 2013 oppure ci vuole annunciare che rinuncia alla politica? Non sono in grado di dirle né sì né no in questo momento. Come mai? Perché dipende da tanti fattori. Vabbè, ma insomma, il primo sarà la sua volontà. La mia volontà è sicuramente determinante al 50% ed è una volontà ancora non concretizzata. Cioè lei è incerto anche se vuole o non vuole? Sì, sono incerto anche se voglio o non voglio. Nel senso che sono molte le cose che devono essere valutate, primo i programmi, primo gli obiettivi da raggiungere, primo il quadro che ci sarà nell'ambito del popolo della libertà. Ma qualcuno glielo chiederà, secondo lei? Non lo so se qualcuno me lo chiederà, negli anni scorsi non è mai stato chiesto, quindi vedremo. Scusi, avvocato, ma... aspetta o no che qualcuno glielo chieda, sì? Prego? Se lo aspetta che qualcuno le chieda di candidarsi oppure no? No. No, non credo che debba aspettarmi che qualcuno me lo chieda, probabilmente mi diranno se sono tra coloro che possono avere un seguito di vita parlamentare o meno. Però beh, non si capisce, grande confusione all'orizzonte, avvocato Paniz. Vediamo le cose con molta serenità. Con molta serenità, ma tra l'altro lei... il quadro del nostro paese sia in un certo momento in difficoltà, quindi dobbiamo essere molto sereni e guardare con molto rispetto alle scelte che nel tempo si potranno fare. Senta, avvocato, ma anche lei si accoda a quelli che dicono che una sentenza politica... è l'omicidio politico, l'ossessione, la... Francamente non ho nessun motivo per dirlo o per non dirlo, nel senso ho capito, però le parlo con molta franchezza. Mentre la vicenda Mills la conoscevo molto bene, la vicenda Ruby la conosco molto bene perché ho avuto l'occasione di valutare le carte, eccetera. Invece... questa vicenda Mediaset è stata tutto sommato trascurata, nel senso che anche noi eravamo assolutamente convinti che non ci fosse alcun profilo che meritasse una approfondimento. Ma allora chi è che merita la rottamazione? Gli avvocati di Berlusconi? Forse. Gli avvocati di Berlusconi sapranno le scelte che dovranno fare, così come hanno saputo le scelte che hanno fatto, quindi sono preparati, sono bravi, conoscono il loro mestiere perfettamente, quindi sono in grado di esprimersi. Io parlo da parlamentare, da deputato, non da avvocato. Ma c'è questa persecuzione oggi? È la dimostrazione ancora una volta che c'è la persecuzione, secondo lei, oppure è sbagliato dire questo? Non lo può dire. Questo lo ha detto, mi pare, sia il presidente Berlusconi che i suoi avvocati. Io prendo atto di queste dichiarazioni con il rispetto che è dovuto sia per la fiducia che ho nei confronti di Berlusconi sia per la fiducia che ho nei confronti degli avvocati. Non ho nessun elemento oggettivo non può dire nulla. Per poter confermare o non confermare. Non può dire nulla, né su questo né sulla sua ricandidatura. No, ma scusami, voglio dire all'amico Paniz, che vuoi dire? Da parlamentare della Repubblica, lui oggi dovrebbe essere, come dire, terrorizzato. Non si sente bene il tuo telefono, avvocato Paniz, si deve ricandidare a questo punto Berlusconi o no? Berlusconi ha già escluso di ricandidarsi. No, ricandidarsi in Parlamento, in Parlamento. Mi pare che abbia già escluso. No, quello non l'ha escluso per niente, ha detto la ricandidatura da Premier. Secondo lei un condannato in primo grado, anche se non per reati con la pubblica amministrazione, ma non c'entra niente, comunque l'evasione fiscale e la frode fiscale è un reato grave, secondo lei si deve ricandidare sì o no? Allora, secondo me, per quanto riguarda la posizione di Berlusconi e di tutti gli altri che siano condannati in primo grado, salvo coloro che sono condannati per reati contro la pubblica amministrazione, vale la presunzione costituzionale di innocenza. Quindi, cioè un evasore fiscale in primo grado, condannato in primo grado, si può ricandidare? Secondo me sì, perché c'è la presunzione di innocenza prevista dal nostro ordinamento. Lei sa che io sono un garantista e sa che ho fatto un'unica eccezione. Ma l'opportunità politica suggerirebbe a Berlusconi di candidarsi sì o no con una condanna sul groppone così? La mia opinione è quella che le ho già detto, cioè che per quanto mi riguarda chi è condannato in primo grado solo per reati contro la pubblica amministrazione può, anche per ragioni di opportunità politica, non candidarsi, perché dal punto di vista giuridico potrebbe farlo tranquillamente. Cioè, allora Berlusconi è opportuno che si candidi sì o no? Sì, in Parlamento, secondo in me. Parlamento, sì. In Parlamento, in Parlamento, anche se qualcuno oggi invoca che come la Santanchè che Berlusconi ritorni a candidarsi per combattere il giustizialismo. No, come Premier la risposta è già stata data e mi trova perfettamente benissimo. D'accordo. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo? Im! Mai al mondo verrà la fine. A casa nostra purtroppo ci ritroviamo un mago Telma delle quattro ruote che fa una dichiarazione al giorno, non fa una macchina neanche se gli spari, e gli operai ci devono andare di merda. Meraviglioso scambio di tweet tra Daniela Santanchè e l'amico Pinuccio. Santanchè, Berlusconi, sei l'unico che può tenere alta la bandiera del garantismo. Pinuccio, con l'aiuto della pompetta. Francesca da Varese, 800 24 00 24. Francesca, dica. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Vada. Volevo dire una cosa riguardo alla intervista della signora Marina Berlusconi di questa mattina. Sì. Ecco, voglio dire che il problema di questo povero signore anziano è proprio la sua famiglia, secondo me. In che senso? Che ha lasciato che andasse fuori controllo oltre ogni limite tollerabile. E dico solo questo, il problema che alcuni genitori hanno un giorno nella vita è di dover dire magari ai loro figli tesoro, sei stato adottato. Invece il caso di Marina, Barbara, sì, Eleonora e tutte le altre sarà un giorno di dover spiegare, cercando di essere veritieri, chi era il loro nonno, perché tanto comunque ci sarà scritto da qualche parte se incontrava minorenni e che ne ha fatto i addirittura. Ecco, volevo solo dire questo. Addirittura, il problema dei figli di Berlusconi sarà quello di raccontare ai nipoti che il padre era una sorta di pedofilo, scusi, secondo lei. Io credo che tutte le persone normali, se avessero un parente nel parentato come Berlusconi, se ne vergognerebbero. Ha avuto ragione un pochino una volta che l'ho sentito che ha detto forse mio padre lo andrei a prendere per l'orecchio, infatti è vero. Grazie, Andrea, provincia di Milano. Buonasera, Cruciani. Vada, sì, dica. Buonasera, senta, come direste lei e Parenzo, questa sera siamo al top, ma della supercazzola. Ho sentito l'intervento di Borghezio, mi sembra che abbia iniziato la sua campagna elettorale personale inventandosi la supercazzola della Madonna di Fatima e con cui cerca di raccattare qualche voto. E allora? Allora niente, mi faceva piacere di dire che mi sembra la supercazzola della sua campagna elettorale per raccattare voti. La supercazzola, va in onda da due giorni qui e l'abbiamo sbeffeggiata in tutti i modi. Matteo dalla provincia di Monza, buonasera. Buonasera, salve. Dica. Volevo parlare della condanna, no, di Berlusconi. Sì. Che è arrivata, diciamo, dopo 18 anni, no? Tra prescrizioni, proscioglimenti. No, dopo 10 anni più o meno le indagini sono durate una decina di anni. Allora? No, però dico dall'ascesa della vita in politica. Vabbè, dunque? No, secondo me, vabbè, sentenza giusta, nel senso che comunque... Ma giusta, che ne sa lei? L'ha letta, sa della motivazione, eccetera, conosce i dettagli? No, però... E allora però che... No, ma non dico in quel senso, dico nel senso che, parliamoci chiaro, in tutti questi anni non solo ci sarebbe stato dovuto essere questa, ma anche altre. Questa riguarda Mediaset, ma poi se vogliamo parlare di tutto il resto, voglio dire... Di tutto il resto cosa bisogna dire? Dica. No, ma lei basta che scriva su internet procedimenti Berlusconi. Sì, e beh, lei si informa in questo modo. Procedimenti Berlusconi, va su internet. No, vabbè, dai, però ne ha fatte di cotte di crude. Su. Vabbè, Sandro, no, Sandro da Ascoli. Al di là di questo, se nessuno, anche Paniz poco fa, non reputano scandaloso che si voglia ricandidare una persona che è stata condannata in primo grado per un reato gravissimo che è quello di evasione fiscale, ma negli Stati Uniti, nei paesi civili, non nel Burundi o in qualsiasi altro posto del mondo, non si sarebbe neanche posto il problema. Cioè qui noi critichiamo, no, a me non interessa di leggere le motivazioni della sentenza, hai capito? Io non voglio leggerle, a me basta sapere che dei giudici in primo grado, e vedremo ora sui della prima, hanno condannato Berlusconi per evasione fiscale, quindi non mi interessa frode fiscale. Beh, non mi interessa Cicchitto, i commenti politici non mi interessano, mi interessa che in un paese normale e civile e democratico, fatta questa sentenza, non si discute più neanche della candidatura, non c'è neanche da discutere, fa uno, hai capito? Sandro D'Ascoli Piceno, Sandro. Eccomi, sì, pronto, buonasera a tutti. Dica. Io per una volta sono veramente d'accordo con Parenzo, anche se spesso e volentieri mi trovo in disaccordo, questa volta sono perfettamente d'accordo con Parenzo, perché in un paese normale è impossibile, capito, che dobbiamo sentire la Polverini che mi dice che è vittima, che è ostaggio dell'auto blu, di cosa, ma io vado a lavorare, io prendo anche ieri si faceva praticamente la polemica sui 150.000 euro, se uno è ricco o non è ricco. Io sono un pubblico dipendente. Sì, allora? Io voglio semplicemente dire che con i miei 25.000 euro di reddito annuo, lordo, mica netto, cioè io mi devo pagare 2.000 euro per andare a lavorare all'anno, devo andare a pagare, e io che so allora? Cioè io che sono? Cioè nel senso, se la Polverini è vittima, qui praticamente in un paese... No, ma non dice che è vittima, scusi, non ha detto che è vittima, ha detto che, e secondo me non bisogna dirlo, che la scorta, e la macchina di servizio, l'auto blu, è una forte limitazione della libertà personale. Questo non bisogna dirlo, comunque, la scorta viene assegnata per motivi di sicurezza, però non è che uno può dire è una forte limitazione della mia libertà personale, sì, lo sappiamo, però insomma è il peso da pagare ad una carica, non è che bisogna poi farlo pesare... su chi ti accusa magari di aver usato in maniera indebita l'auto blu per andarsi a comprare le cose in farmacia o per andarsi a comprare le scarpe. Moreno da Firenze, buonasera. Sì, buonasera dottor Dica Cusciani. Dica, ma c'è qualche grillo da sentire? Guardi, io le voglio fare subito un'affermazione. Io dico, fortunatamente gli italiani, molti italiani non hanno pagato le tasse, perché perlomeno un po' di soldi da parte nelle banche ce li hanno, perché altrimenti ce l'avrebbero rubati tutti questi politici. Capito? Non ho capito, questo. Gli italiani fanno bene a... No, hanno fatto bene a non pagare le tasse fino ad oggi. Ma perché, Moreno, perché? Cosa c'entra? Perché perlomeno gli italiani un po' di soldi da parte ce li hanno, perché altrimenti questi politici ce li avrebbero rubati tutti. Bah. Sarà l'ora d'aria. Sarà 19:40. Questi politici col ditino alzato ce li avrebbero rubati tutti, giusto evadere. Dai, portatelo un attimo di nuovo, dai. Moreno, via dal giardinetti. Stia tranquillo là che adesso arrivano due signori con... sulla panchina dei giardinetti, adesso arriviamo a prenderla, a portarla via. Ma sì, due signori col camice bianco, con la puntura in mano. Dai. Stefano... Hanno fatto bene questi signori! Col dito alzato, no? Te lo immagini lì seduto. Cruciani, io lo voglio dire! Me lo dica! Sai quelli che chiamano e dicono, io lo voglio dire. Ma lo dica, c'è matto, lo dica. Io lo voglio proprio dire! E lo dica! Io non ho capito. Stefano, provincia di Siena. Dica, non si sente niente. Dario da Lecce. Sì, salve. Mi sente? Sì, la sento, dica. Allora, ma io non capisco perché quando si parla di... o qualcuno dice o tenta di far capire che in Italia se i politici rubano gli italiani non devono neanche pronunciare la parola evasione, qualcuno come Parenzo dice è l'ora d'aria. Ma insomma io non ho capito. No, ma quel signore diceva un'altra cosa però, Dario, scusi. Quel signore diceva un'altra cosa, non si preoccupi. Cruciani, scusami, io oggi ho ascoltato la trasmissione di quella che va in onda con Barisoni, ho sentito parlare il presidente dei giovani industriali di Confindustria e ha detto le solite cavolate che non ce la facciamo più. Ma insomma, ma queste benedette aziende, io ho chiuso la partita IVA che non ce la facevo più, e meno male, perché altrimenti veramente i soldi non mi sarebbero bastati per poter pagare le tasse. Ma insomma, tutte queste aziende quando decidono di fare uno sciopero fiscale serio, tanto alla fine se lo Stato non incassa l'IRPEF, non incassa l'IVA, col cavolo gli danno i contributi e il rimborso elettorale. Ma io non ho capito niente però, scusi Dario, ma dove vuole andare a parare lei? Me lo spiega? No, non voglio andare a parare da nessuna parte. Bisogna rispettare, secondo me, le persone che si indignano e giustamente non vogliono pagare le tasse in uno Stato in cui... Ho capito, ma se tutti quanti ragionassero così... nessuno pagherebbe le tasse, ha capito? Cioè, farebbero bene perché io voglio pagare le tasse in merito a quello che posso pagare e soprattutto anche in merito a quello che posso ricevere. Ma se tutti quanti fossero pagassero le tasse alla carte, cioè pagassero le tasse quando vogliono, come vogliono, a seconda dei propri capricci, quello funziona, quell'altro non funziona, pago questo, sarebbe il caos più totale. Bisogna riformare il fisco, fare un sacco di cose, la burocrazia, per carità, cioè bisogna anche combattere lo Stato, affamare la bestia, per carità, io sono d'accordissimo, però... Cruciani, ascolti, basterebbe dire... Lei le paga le tasse o no? Dario? Io adesso non ho più la partita IVA, che tasse devo pagare? Vabbè, che c'entra? No? Pagherò l'IVA al 22, figurati. Ma se io dico, ma se lo Stato dicesse a tutti gli italiani con partita IVA, datemi il 10%, vi pagate tutto, tutti pagherebbero le tasse, perché col 10% chi vabbè, questo può essere un discorso. Grazie Dario, grazie, introduciamo così l'ospite. Che vuole ancora? Io le volevo chiedere un ultimo favore. Va bene, ma che sia veramente l'ultimo, eh? Volevo salutarla. Salutarmi? Sì, se n'è andato via così. Riconosce questa voce? Pensavo che mi odiasse. Chi è? Onorevole Mussolini, è lei. Arrivederci. Io? È lei, senta, senta. Preferirei che perché? Quale? Che cosa adesso avete no, tirato fuori dal carità, vostro cilindro diabolico? Attenti pure alla vita di qualcun altro, io le ho già detto che ne ho abbastanza. Ha capito? Ma no. Ma come no, come no, come no, è un film, film, è un film. Non scommettere mai con il cielo, non scommettere mai con il cielo. Bellissimo. Ma che anno neanche era? Neanche la voce ho riconosciuto. Che anno vabbè era? Ah, e chi se l'ho? 80, anni 80. Anni 80? Forse, penso, non lo so, sapete tutto voi. Ha dimenticato tutto lei, dimenticato tutto. 87, non scommettere mai con il cielo. Vabbè, ho detto anni 80. Ce n'è un altro che abbiamo, ce n'è un altro che abbiamo. Che bella che era bella. Mi dovete dire. Era bellissima in quel film. Era, io la vedo qui perché la sto, mi sto scaricando il film in beh, anche adesso devo dire che si mantiene bene. L'altro giorno l'ho vista. La mantiene. Parliamo di cose serie. Che mi volete dire? Un altro taglio del film, un altro pezzo del film. È una bella donna, peccato che sia del PDL, ma è una bella donna. Ma stai zitto, Parenzo, su, stai zitto. Un altro pezzo del film. Quello era un bacino così sulla guancia. Veramente? Quello che dico io è stato sulla bocca. Sulla bocca? Sì, nel bosco. Era svenuto, quasi moribondo. E allora, per succhiarle il veleno dalle labbra, io... io l'ho baciata. Lei? Sì. Allora lei mi ha salvato la vita. Io ero là, moribondo. Sì, così. E lei... Marco... onorevole Mussolini, dico, voi mi avete chiamato per farmi sentire un film, tra l'altro doppiato, non, la voce non è la mia. Ah, non è la sua? Non l'ho riconosciuto. Non è la sua? No. È doppiato. No. Ma, è una specie di soft porno, cos'è sto film? Una specie ma di... che soft porno, bada, caro. No, ma soft, dico, soft. Molto, no, cos'era? Molto soft. Molto soft. Vabbè, comunque. Ma qual è la storia? Ma no, è una storia complicata. Ma che ne so, ma con le cose importanti ci sono, dai. Ormai ha rimosso tutto. Chiamate per questo non ma ci no, posso credere. No, ha rimosso tutto il passato. Allora, voglio dire, ci fa questo annuncio che si candida anche lei alle primarie del PDL o no? Certo. È ufficiale? È ufficiale. È ufficiale. Bene. Ma si candida così, per gioco? No, mi candido perché mi devo candidare, io faccio parte del PDL e quindi si candidano le primarie aperte, è bellissimo, è importante. Vabbè, d'accordo, ma è una candidatura di bandiera, quanto vuole prendere lei? No, onorevole Mussolini, io mi voglio candidare perché così per un mese e mezzo parlo degli argomenti che mi interessano, bambini e donne. Ma già ci parla, già bambini. Parla di questi argomenti no, dappertutto. No, non è abbastanza, non potete capire quello che sta succedendo. Che è sta succedendo? Che sta succedendo? Scusi. No, perché non sono ascoltati, sono maltrattati. I bambini. Ma lei è andata a fare quella sceneggiata lì da quel povero bambino che è conteso da due genitori? No, se dobbiamo parlare di cose, è una vicenda drammatica. Sì, ma che è andata a fare lì a trovare quel bambino? Ma che c'è andata a fare a trovare quel bambino? Io sono andata a vedere come stava quel povero bambino. Lo so, ma non è... Ma perché un politico, cioè... È un caso di cronaca drammatico. I politici se fanno perché fanno, se non fanno non fanno. Dipende da quello che fanno. Sono presidente della commissione infanzia e adolescenza, rivendico il mio ruolo. Io vado perché ci sono delle strutture che sono fatiscenti, che sono alcune volte dei laghi. Ah, per vedere le strutture lei è andata. Deve cominciare a parlare di questo. Ho capito. Vabbè. Non va bene, voi dite. Ma no, ma insomma, non è che la sua presenza ha cambiato la situazione, per carità, detto appunto, con tutto il rispetto. Cioè, però lei è andata a controllare. C'entra. Questo non c'entra, c'è un bambino che ha detto delle cose precise e quindi io credo che in questo momento parlare anche di chi non ha mai voce, forse perché non ci sono sindacati, i bambini sì, non contano, è molto importante. Io voglio fare questo. Vabbè. Allora? No, per carità. Ognuno dà giudizio. Vada come vada, tanto io... Cioè, la politica la faccio per passione, non perché poi... Ma lei si vuole ricandidare, onorevole Mussolini, si vuole ricandidare lei? Ma lo credo. Ah, tutta la vita proprio. Poi dopo chi ha chiamato al telefono? Pure questo è vero. Pure questo è vero. Voglio sapere qual è poi dopo la vostra vittima preferita. Questo è vero. Questo è come immagina lei il suo futuro tra 15 anni? Il futuro, cioè uno dice, come si immagina? Qual è il domani? Ma no, Parenzo, ma che domanda è? Ma perché fai queste domande così stupide? No, perché se lei si immagina sempre. Se lei si immagina sempre in Parlamento, il senso era questo, cioè uno dice, guarda, io tra 15 anni mi immagino ancora alla Camera, benissimo, ma per capire. Allora io credo, quello che ha detto, già lei mi ha detto una cosa, dice in democrazia decide la gente, perché c'era la polemica, lui si candida e non si candida. Che vuole le preferenze pure lei. E allora, no, io sto dicendo, decide la gente, cioè non è che decide. Ho capito, ma se restano le liste bloccate, decidono altri. Se restano le liste bloccate, la legge si cambia. La legge si cambia. Scusi, però, io voglio capire una cosa: lei si candida a fare il le leader? Le primarie, che sono state una cosa meravigliosa di Silvio Berlusconi. Ma che non l'ha mai fatto? Non un passo indietro, un passo in avanti. Ha ragione. Oggi l'hanno condannato. Ah, guarda, dopo questa sentenza, io mi ricandiderei forse Berlusconi. Ah, sì, è una cosa ridicola, a parte che è stato condannato lui e non con Falonieri, quindi vuol dire che è fatto proprio ad arte prima di una campagna elettorale. Avranno festeggiato molti, solo questo mi dispiace, già vedo le facce. Beh, non è già detto, sa. Brindisi pure voi, una mezza bicchierata ve ne siete. No, noi no, ma che bicchierata? Sicuro siete un po' brilli, ma noi mi facevate sentire quei pezzi di quel tipo. È curioso. No. Che cosa avete assunto dopo che Berlusconi è stato No, guardi, le assicuro che Parenzo già lo sento traballante. No, io sono eccitato come una ride. No, io sono eccitato come una scimmia, ma lo vedi? Lo vedi? No, ma no, guardi, ma guardi che sentenza, secondo me una non, secondo me un ormai la gente lo considera fuori gioco, Ma non è fuori condannato in primo grado, condannato ma in primo grado, non si dovrebbe ricandidare, ma onorevole Mussolini, su. A parte che 4 anni con l'interdizione dei pubblici uffici. E ridi per 5 anni. Ridicola, io fossi lui mi ricandiderei, pensa che bile che gli fai venire alle persone. Bello, meno male che non faccio politica. In che senso, come non fa politica? Come fa politica? Madonna, ma non si può scherzare. No, deve scherzare. Allora, scusi allora. Un attimo, ma come si immagina adesso Berlusconi in questo momento, che dice, a un certo punto Berlusconi se ne esce però... in questo momento chiaramente è una persona che non è vero quanto si dice che lui ha fatto il presunto passo indietro perché già era a conoscenza della sentenza, non è assolutamente. Quando è stato a cena a casa sua? È stato a cena mercoledì. Ah, l'altro ieri. Che ha cucinato per Berlusconi? Le pizze fritte. Le pizze fritte, una cosa pesantissima. Non è una cosa pesantissima. Le pizze fritte sono leggerissime, sembra. Beh, leggerissime, sono esageriamo. Sono leggere perché l'olio lo toccano solamente. Lasciate fare. Ma ha cucinato lei? Ha cucinato lei? E Berlusconi ha apprezzato? Certo. Quante ne ha mangiate? Era sereno, non è stata una cena dove c'era la pressione, le cose, le richieste. No, perché c'erano anche altre persone. Chi c'era? La sua fidanzata? C'era la sua fidanzata? Siamo stati, nonna, quanto siete noiosi. Vabbè, ma ci sarà stata qualche donna, no? Ha cantato anche qualche canzone. Che ha cantato? Prima non lo voleva fare, ha cantato qualche canzone. Con una voce bellissima, perché... tutto bello, bellissima. Sì, ha una bella voce, devo dire che ha una voce bellissima, meglio della mia sì. E praticamente siamo stati bene il giorno stesso che lui ha fatto questo annuncio ponderato importante. Era una cosa già fissata a casa sua. Una cosa fissata. Beh, certo. Chi c'è? Chi eravate? Ci descrive i commensali. Eravamo amici. No, i nomi però. Ho capito. Lei, suo marito? Lei, suo marito? Non li faccio. Mio marito, c'era mia madre, c'erano i miei figli. Sì. E poi chi altro volete sapere? Beh, c'era un grande evento da festeggiare. I miei colleghi. C'era un grande evento da festeggiare. Il mio matrimonio. Beh, no, c'era anche il 90esimo. Perché il 90esimo di che? Domenica cade il 90esimo della marcia. Ci sono pure le elezioni in Sicilia. Però il 28 c'è anche il 90esimo della marcia su Roma. Certo. Non è una roba da poco. No. Però abbiamo festeggiato l'anniversario del nostro matrimonio. Quanti anni ha fatto di matrimonio lei? 23 anni di matrimonio. 23 anni, mi sono sposata nell'89, è stato un po' il calcolo. sono senza mai nessuna crepa. Senza mai nessuna. Beh, qualche crepa ci sarà stata. No, ma quando mai, che crepa? Niente, no. Niente. Lei non è come la Minetti che I ha bisogno. I matrimoni, già ve l'ho detto, si devono coltivare giorno dopo giorno. Assolutamente. Fare. Lei non è... si sente fedele nei secoli come l'arma. Fedele nei secoli. Sì. Scusi un attimo, ma lei non è come la Minetti che ha bisogno di un uomo al giorno? Ha sentito quell'intervista che ha detto, no? Ha bisogno di un uomo al giorno. Senza... Lei è esuberante. Beh, molto esuberante. Vabbè, ma perché gli uomini non sono esuberanti? Sì. Non mi cominciate a fare l'ipocrisia. No, per carità. Voi avete solo in mente... Basta, cosa? Che abbiamo solo in mente? Solo in mente il fatto che Berlusconi è stato condannato e adesso stare festeggiando. No, non stiamo festeggiando. Non è come Mussolini, assolutamente. No. No, assolutamente. Scusi, però... ricandidarsi, basta. Perché si dovrebbe ricandidare a questo punto, ma secondo lei? Per dar la vinta a qualcun altro, dire... per dar la vinta, per non dar la vinta ai giudici. Ma chi? Berlusconi? Ma lo dovrebbe fare subito, perché è una sentenza, è vero che è una sentenza fatta a ridosso delle elezioni. Io mi candiderei, li farei diventare matti. Che bello, pensa, ci ho fatto il partito. No, ne faccio tre avanti, che bello. Pensa, non ci capiscono più niente, Renzi si butta non so dove, Bersani non si sa, forse smette di fumare quel sigaro di Ciano. Qualcuno dice che assomiglia a Cary Grant, Ma chi? Bersani. Ma chi? Bersani. Ma fatemi il piacere. Con i capelli assomiglia a Cary Grant. L'ha detto la sua portavoce. Vabbè, perché no? Scusi, adesso. Ma chi la portavoce? Quella che è stata la indagata, la segretaria? La Moretti, no? La Moretti. Siamo Moretti. Una bella ragazza che va in televisione ogni tanto. Sì, una bella ragazza, va bene. Non è male, No. Parli male delle donne. Pubblicità, torniamo subito. Torniamo subito. Io voglio fare questa trasmissione, una rubrica che si chiama Casa Mussolini. Che Mussolini ogni sera. Le pizzette però ce le fa qualche volta, eh? Ma guarda che sono molto buone, eh. Night con noi Alessandra Mussolini, che ha detto che Berlusconi... Posso fare una domanda? Sì. Ma voi le pubblicità che mandate le sentite o le sentiamo solo noi? No, perché no. Perché sono grottesche. No, purtroppo le sentiamo, il per carità. Il trasporto del pallet, la donna non so quanto consuma rispetto all'uomo. Vabbè, dai, cioè, allora... una vergogna sono, dice lei? No, non hanno molto senso alcune volte. Alcune volte non hanno senso, è vero. Alcune volte. Intanto nel frattempo hanno dato l'ergastolo a Parolisi sulla... l'omicidio di Melania, ecco, vedi, questa adesso è uscita? È uscita adesso, sì, è uscita adesso. È contenta? Beh, povera bambina, perché adesso ha perso la madre e il padre non lo potrà più vedere perché ha l'ergastolo questa condanna. Io penso sempre grave, però vuol dire che avevano quindi delle prove. Sembra, hanno dato l'ergastolo, comunque, vabbè. Ma scusi un attimo, lei... Il delitto è ferato, mi dica. Ma lei pensa, quanti voti pensa di prendere, onorevole Mussolini, non a queste primarie? Non importa, certo, se voi mi mandate la canzone giapponese, pochi. Anzi. Ma io vorrei farvi una domanda, ma non ve la posso fare, se no voi mi fate la provocazione. No, ce la faccio, ce la faccio. Vabbè, insomma, i candidati del centrodestra. Beh, per adesso sono Alfano sicuro sarà, no? Galan forse, la Santanchè, la Mussolini per adesso sembra questo, per adesso, poi siamo ancora all'inizio o no? Ecco, due donne, chi c'è dall'altra parte? C'è Renzi e Bersani che stanno duellando. No, c'è anche duello. Una donna, la signora Puppato. Ma non ne parla nessuno. Vabbè, ho capito, no, ancora... Ma chi la conosce poi? Cioè, ma che vuol dire? Ma perché una donna chi la conosce? Perché ma no, va bene, va bene, va benissimo. Ma non è che perché sempre indietro, capito? Quando tu vedi le foto dei leader che fanno i sondaggi, sono sempre gli uomini, che noia. Sì, ma la Santanchè che ne pensa della candidatura della Santanchè? Ma voi, tra me e la Santanchè, chi votereste? Ma sto scherzando, non mi rispondete, sto scherzando. No, come non rispondiamo? Non sto scherzando, non voglio conoscere la risposta perché sennò non vi parlerei più al telefono. Lasciamola così, Parenzola senza che. Invece lei me, via, facciamo così. Fare, no, no, io il brivido, io non voto per il PDL, ma il brivido di scrivere Mussolini, sì, forse è quello. Comunque il 90esimo, la marcia su Roma fu un grande evento, onorevole Mussolini. Oh mamma mia, che cosa volete adesso? No, che lei ci dica la verità, una volta io per tutte. Ho fatto la marcia, sono orgogliosa della marcia su Roma, sono orgogliosa di quello. Sapete che cosa vi posso dire? Hanno cambiato, adesso parliamo di cosa, un attimo, una serietà. Hanno cambiato la targa Givino di Mezzegra, dove hanno ucciso, massacrato mio nonno. Sì. E perché lo hanno fatto? È una provocazione. Io dico, la storia è quella che è. Che hanno scritto nella targa, scusi? Ma tutte cose polemiche, sempre, che non c'entrano niente. C'entrano niente, perché non c'è stato processo, c'è stato quello che c'è stato. Quindi io credo che la storia debba insegnare e si debba trarre anche da quello che succede. Vabbè, d'accordo. Però poi dopo ci sono le problematiche di attualità e poi bisogna prendere atto, cioè la storia è storia. No, vabbè, quella, io volevo sapere se la marcia su Roma, però, secondo lei fu una cosa positiva. Ma sono sposati il 28 ottobre. E dunque? Beh, dunque, fu un grande evento. Fu un evento grandioso. Significativo, positivo per l'Italia. Ma voi pensate di parlare con... Ma guardate, io vi conosco bene a voi due. Lei dovrebbe... Pensate a Berlusconi. No, ma lei dovrebbe avere il coraggio di dire... Io dico quello che ho sempre detto, io sono di parte, e appunto io faccio parte di questa famiglia. Benissimo. Ho un'obiettività limitata, e appunto lo sto dicendo come se non ci sentisse nessuno, perché era mio nonno, e dunque mio nonna Rachel, e quindi punto, quindi di me. Quando voi parlate di date fu una grande Italia per, quando, una grande data questo, per l'Italia, sì, quando o no? Quando voi parlate di date storiche, non vuole, non vuole dire sui libri, per me la famiglia, quindi basta, ho detto, adesso di che parliamo? Di niente. Adesso sono le 8 e me ne vado a mangiare la pizza fritta riscaldata. Dai. Come la pizza fritta riscaldata? No, pizza fritta. Ma Fini ieri sera l'ha visto, la Santoro? Fini, allora scusa, posso parlare di Fini? Sì, parli di Fini. È stato patetico. Perché? A parte che lo conosco, ma ha fatto pure un po'. Perché? Perché quando comincia a tossire, a fare quelle facce così, lo conosco in difficoltà. Santoro lo aveva messo alle corde. Aveva detto, guardi che aspetta, lo aveva messo alle corde all'inizio dicendo, è lei che ha detto che si sarebbe dimesso se ci fosse entrata la famiglia Tugliani nella vicenda con Giancarlo Tugliani. È entrata, è emersa, adesso non lo so, e lui, ma lui d'altronde che si deve dimettere? Ormai è finita la registrazione. Appunto, dico. È una cosa, però non ha risposto, non ha detto ho sbagliato, mi rimangio le cose, oppure sì, mi dimetto. Ma no, ha detto sono affari privati. Ma che c'entra? Non dire prima che ti dimetti. Infatti, sì, ma da questo punto di vista, a un certo punto Santoro ha detto qui il 99% delle persone pensano che quella casa sia comunque riferibile alla famiglia Tugliani, in qualche modo. Sì, certamente, lui ha detto ma non ci sono fatti bene. Ma lei non si pente un po', vedendolo così in televisione, non si pente un po' di essere stata tanti anni con lui? No, io ormai me ne sono andata. No, ho fatto un'uscita di scena meravigliosa, glielo manco ci ho parlato. Infatti mi chiamò, io feci un comunicato stampa, il mio cognome è incompatibile in quel partito, ricordo che feci quello. Ignazio La Russa mi chiamò per dire ma incontriamoci, vediamo. Io me ne sono andata senza rimpianti, felice. Vabbè, d'accordo, infatti, però infatti si è visto quello che poi è successo. Cioè, una persona a Fini dovrebbe avere un tom-tom, non sa manco lui dove deve andare, e secondo me se il tom-tom gli indica la via, lui prende un'altra strada, neanche il tom-tom segue. Ma quella è la destra moderna, scusi Mussolini, quella è la destra moderna, e la destra sciracchiana. Ma quale destra sciracchiana? Di che cosa stiamo parlando? Per carità. Ma perché primarie, non molla? Perché, se no, perché secondo lei le primarie aperte, dovrebbe, secondo me si dovrebbe presentare anche Casini nelle nostre primarie, perché sennò Casini con chi va? Con Fini. Anche Maroni. E perché Fini hanno non si presenta? Con noi. Perché Fini non si presenta? In altra cosa, ma perché secondo lei, perché non molla la Tugliani? Io non vorrei che si candidasse pure Fini, sai quanti voti prende? Non lo so. Pochi. Pochi. Sì, ma secondo lei c'è là dentro in quella famiglia c'è un po' un casino? Perché non ammolla la Dugliani, secondo lei? No, queste sono cose personali di Fini, e lui ha detto quando la vedrò io questo. No, io sto facendo giudizi politici, non personali. Beh, però le questioni personali diventano anche questioni politiche a un certo punto, no? Ma lui ha sbagliato, perché lui, sapendo forse quello che c'era dietro, non doveva esporsi a dire io mi dimetto se quella casa c'è il sospetto, se quella casa. E poi lo sa lui. No, se si dimostra che c'è la casa. Beh, va bene, ma insomma. Vabbè, insomma, chi le piace di più nel PD? È più sexy Bersani o Renzi? No, io sono per la donna. Ma lei è sempre per la donna, così a prescindere. Ma certo, perché Renzi è andato, insomma, abbastanza bene nella trasmissione ieri, però c'è un però, nel senso che scivola sulle banane Renzi, spesso, sì. Cioè non mi convince fino in fondo. No, come le banane. Che ne so, non la convince fino in fondo. Sulla buccia di banana, così su quella. Vabbè, non mi convince fino in fondo. Comunque, guardi che questa storia della condanna di Berlusconi rimette in gioco tutto. Si mette in gioco tutto, perché io farei vedo e rilancio. La zanzara. E andiamo a Verona da Gianni. Buonasera. Sì, buonasera, voi che potete provare a intervistare Gaucci praticamente, per magari lui vi spiegherà perché non lo lascia praticamente. Ma chi? Fini, la Tugliani, eccetera. Sì. Poi? Non lo so. Comunque, volevo dire prima, sentivo parlare Borghezio, no? Sì. E pensavo quanto ci costa Borghezio ogni giorno, ogni mese, quanto ci costa. Non c'è la pena di morte per certe persone. La pena di morte. Sentiamo Berlusconi. In un paese, questo paese diventa incivile, diventa un paese barbaro, invivibile, e cessa anche di essere una democrazia. Nelle dichiarazioni arrivate a pioggia dal PDL, la stessa lettura, sentenza incomprensibile, attacca Alfano. Ci sarà pure un giudice. Questo era Berlusconi, la prima reazione dopo la condanna. Diceva Gianni? No, dicevo che. Cioè, perché se la politica è, diciamo. Cioè, non riesco quasi neanche a parlare, ma no, una persona che fa certi discorsi. Ma sarebbe presa sicuramente e messa legata praticamente. C'è portata via con l'ambulanza, dice lei. Gianni, grazie. Renato da Torino, buonasera. Oh, buonasera. Io volevo semplicemente parlare di una teoria che ho sul Berlusconi che lascia la guida del PDL. Sì, e qual è la sua teoria? Secondo me è semplicemente malato ormai. Che gli in che senso, poco. Scusi? Malato. Nel senso che sapevamo da fonti che a voi non sono molto simpatiche, che è stato malato di tumore, che era andato in America. Ma che c'entra, scusi, ma non risulta malato secondo me, adesso? No, e secondo me questa malattia esiste ancora, nel senso che chiaramente non dicono è malato, che è malato di tumore, sarà malato per tutta la vita di tumore, dovrà curarsi. Ultimamente, le ultime uscite che ha fatto in pubblico, era molto tirato, l'ho visto molto provato, ma non credo dalla politica, cioè voglio dire. E no, alla fin fine. E dunque? Cioè, cosa c'entra questo con la, scusi, con la condanna? Voglio dire che Dio vede, Dio provvede, no? Nel senso che ce l'ha levato dalle balle, insomma. Bravo Renato, lei è un sincero, come dire, no? Sì, è una persona super tollerante. Ha detto una porcheria. Io sono super tollerante, sì, però ha finito. Si augura la morte di Berlusconi, in sostanza. No, non auguro la morte di Berlusconi. Quasi, spero come che... no? Ha detto Dio provvede. Ha detto una stronzata. Dio vede, Dio provvede. Io gliela auguro da anni, ma non sono io a decidere. Cioè, ma che cos'è che augura, scusi? Cos'è che augura? Auguro il fatto che questa cosa sia vera. Cioè, lo vedo molto provato e mi piace l'idea che finalmente soffra qualcosa anche lui. Mamma mia. Vabbè, ma lei è malato di mente. Ma lei è malato di mente. Vabbè, ci sono persone malate di mente. Beh, certo. Ma perché è malato di mente? Ma scusi. Cioè, lui non avrà mai le percezioni che ho io della vita. Sì, lui, e allora? Se l'è sempre goduta, dunque? Ma ci ha portato nella merda, a questo punto noi siamo nella merda, grazie. Perché a lui. Lei è nella merda, Renato, che lavoro fa lei? Certo, sì. Che lavoro fa lei? Tecnico audio, ma... Tecnico audio, sì. È dura, sì. È dura. Senza Berlusconi sarebbe stata meno dura, secondo lei? Ma secondo me sì, perché secondo lei sì, tutte le colpe delle sue frustrazioni dunque sono di Berlusconi, perché no, lei è un frustrato, sicuramente, no? Se tutto fosse andato nel modo giusto l'Italia sarebbe cresciuta, sì. E sicuramente anch'io avrei trovato un posto un po' migliore. Ah, certo, non c'è meno dubbio. meno fatica a crescere, non a c'è dubbio, avanti una famiglia. Beh, le frustrazioni sono una brutta cosa nella vita. Sì, no, ma è colpa di Berlusconi. Che cosa, scusi, non le frustrazioni nella vita sono una brutta cosa. No, non sono frustrazioni, che un elemento del genere va proprio preso come un anticristo, secondo me. Una persona che pensa solo ai fatti suoi e non alla comunità, sì. È una persona che non ha valori nella vita, non ne ha. E quindi a questo punto si trova a dover dare la sua eredità a tutta la propria famiglia. Sì. E quindi ci sarà ancora questo mondo Berlusconi che ci inseguirà, sì, per anni e anni e anni. Ma non gli auguro di morire, gli auguro di soffrire, che è diverso. Ah, di soffrire. Di soffrire, beh, certo, Renato. E lei è ancora in circolazione, cioè gira ancora libero da solo per le città. Io sono in circolazione, certo, i miei pensieri. Lei probabilmente fa il buono, non si sa per quale motivo, sì, perché sicuramente anche lei augurerà le stesse cose a qualcuno nella sua vita. Assolutamente, ma di sicuro. No, guardi, non auguro la sofferenza e la morte a nessuno, quindi guardi. Si fermi un attimo, che arrivano due signori, con la portano via anche con una certa urgenza, caro Renato. Lei è direttamente da portare via. Dove si trova a Torino, dato che sta scorazzando per Torino? Ma dovreste mandare a Brozzolo stazione, quindi sì, proprio, Brozzolo, non si preoccupi, noi arriviamo ovunque. Abbiamo un servizio specializzato, non si preoccupi Renato, non si preoccupi. Abbiamo un servizio specializzato dedicato per la zanzara, non si preoccupi, che arriviamo ovunque, di fronte a certe stronzate, di fronte a certe boiate, esatto. Io direi di fronte a certe perversioni e di fronte a certe frustrazioni che sono sfogate in questo modo, perché lei era serio dicendo che tutte le disgrazie della sua vita, se si possono chiamare disgrazie, dipendono. Ma penso che realmente sia malato, vabbè, adesso al di là di tutto delle mie frustrazioni, come dice lei, che forse è vero. No, è vero, probabilmente è vero, perché io sono frustrato nella vita perché la mia vita non è andata come pensavo non sta andando neanche come penso. Sì. Però io credo che comunque lui stia facendo un po' come Fidel Castro, essendo così un personaggio così importante, sì, è difficile dire comunque a tutta la gente. Ma quello è un dittatore, portato. È diverso, è un dittatore quello, cioè. Difatti, però anche lui lo è stato, no? Beh, certo, Berlusconi. In un modo un po' diverso, però lo è stato. Non c'è dubbio. Numero di telefono da fare. Antonio da Prato prima. Antonio, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Dica, dica. Sì, la sento, dica. No, niente, mi sono un po' saltato sulla sedia quando la sentivo così incitare la Mussolini. Detto quasi denuncio Cruciani per apologia di fascismo. Ma guardi, così, denunciare me per apologia di fascismo mi sembra una cosa un po' bizzarra. Così mi manda l'ambulanza anche a me. Incitava Mussolini a fare cosa? Lei non voleva parlare? No, casa Mussolini. Cioè, casa Mussolini, ma era inteso casa Alessandra Mussolini, non casa Mussolini come il nonno, insomma. Però con tale nome, insomma. Ecco. Vabbè, ho capito, non è che uno si può vergognare del nome. Beh, insomma, comunque, mi scusi, guardi, io 30 secondi. Cioè, in quegli anni lì, di fronte all'Europa che... Vabbè, ho capito, però di che parliamo? Adesso noi possiamo dire in quegli anni lì, ma chi se ne frega? Ma anche al signore di prima, che l'avete trattato a pesci in faccia. Beh, ti credo. È ipocrisia, perché tanto in Italia ci sono tante persone che Berlusconi lo odiano, cioè è inutile... Ma infatti ciò non toglie che io gli mando l'ambulanza lo stesso. Sì, sì, comunque... e ai nostri figli dobbiamo insegnare che il fascismo è stato un errore. Vabbè, d'accordo, ma questo è accertato. Antonio, non si preoccupi, che ci sono. La Mussolini dovrebbe tapparsi la bocca. È pieno di gente che insegna ai suoi figli e ai miei figli che il fascismo è stato un errore, eccetera, eccetera. Non ma c'è... mica tanto, ma come no? Ma come? Perché se ancora abbiamo la nipote, tra l'altro ci assomiglia anche. E che deve fare? Deve morire. Ma chi l'ha detto? E che deve fare? Mi dica, che deve fare? Deve stare zitta per sempre. Vergognare. Ma perché Mussolini è stato il personaggio che ha ispirato Hitler? Cioè è stata una vergogna per il nostro paese. Ma lo sappiamo. Ma io questo lo so. Sì, dopodiché anche Parenzo sta zitto, fa il leccamuro. Ma se quello è stato il nonno, Parenzo, ma che gli posso fare? Parenzo, diglielo, fatti sentire, Parenzo. Ma non pare adesso di... come lei ha detto una cosa gravissima. Intanto Parenzo, stavamo sentire, non soltanto stavamo, si fa comodo. Sì, se stavamo cercando di estorcere alla signora l'antifascista militante Parenzo, l'antifascista militante Parenzo è stato zitto in questo caso. Parenzo, fatti sentire, Parenzo, non soltanto quando si fa comodo, perché non va bene, Ma fa comodo che cosa, giovanotto? Di cosa sta parlando? Antifascista Parenzo, fatti sentire. L'antifascista Parenzo, siccome deve l'antifascista fuori... militante Parenzo, fatti sentire un attimo solo. Aiuto. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di vino. Di vino. Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Him. Elo. Him. Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Mai al mondo verrà la fine. Tutti insieme. Parenzo, anche tu, ti prego, mi sono innamorato di questa canzone. Rifiuto categoricamente. Perché non urli? Non si sente bene, non si sente. Mi rifiuto categoricamente di cantare queste immonde e anche brutte strofe scritte dal signor Marco Amleto Belelli, perché questo è non altro. Marco Amleto Belelli. Aspetta, che questa canzone ormai, dopo che l'abbiamo mandata ieri, sta facendo, già era popolare nel web. Sì, popolare, certo, è diventato come Agnello Sottomarino. Guarda che mi hanno chiamato frotte davvero moltissime persone dicendomi Ma rimandala. Poi c'è un altro caso dopo il caso giornale che in prima pagina è talmente brutta che mette di buon umore, perché è talmente brutta che è una roba oscena, no? Talmente brutta che mette di buon umore, perché è quella bruttezza che però che proprio, no? Dopo il caso Monti dopo il caso Monti, cioè il giornale che ha paragonato Monti al divino Telma, è scoppiato il caso della Valle ieri sera da Santoro. Senti che ha detto cose sacrosante. Aspetti, ma che sacrosante? Senti, a casa nostra purtroppo ci ritroviamo un mago Telma delle quattro ruote che fa una dichiarazione al giorno, non fa una macchina neanche se gli spari, e gli operai ci dovrebbero andare di merda. Divino, buonasera, vi salutiamo e benediciamo dalla veneranda casa madre di Genova. Sì, ecco, sempre con sta stronzata. Abbiamo acquisito, ma abbiamo niente, sempre con sta il stronzata. Brano di questo signore, questo ameno ciabattino. E naturalmente quando abbiamo avuto nelle nostre mani il testo, perché non abbiamo assistito a quel programma televisivo, eravamo altrove impegnati. Sì. Ma che altro? Abbiamo tutto il giorno. Abbiamo autorizzato il nostro ufficio legale a prendere contatto, ciò che è stato fatto con l'ufficio legale del signor Marchionne. Sì. E contestualmente la nostra cancelleria ha trasmesso alle agenzie una nota. Sì, stai zitto, Parenzo, su, fammi sentire. A titolo è un comunicato stampa. Sì, ma quello l'abbiamo già letto. Ricevuto della Valle dell'Ira, c'è scritto: sì. La sconcia inaudita, diffamatoria, sacrilega dichiarazione del signor della Valle suscita pena inenarrabile. Sì. Costui necessita di interventi mirati all'area cerebro-mentale, con speciale riferimento all'emisfero sinistro. Addirittura. È di tutta evidenza, continua il comunicato della cancelleria, che il predetto sta perdendo il controllo di sé medesimo. Sì. Gli uffici legali del divino maestro del dottor Marchionne valuteranno il da farsi. Con ciò l'affare della Valle è liquidata. Sì. Scusi, divino, se la interrompo. Ameno ciabattino. Ecco, perché ormai... ameno ciabattino, dice lei? Perché ameno ciabattino? Ciabattino perché costui ci dicono... Sì. Ci dicono, nell'affannoso tentativo di accostare il suo nome, sconosciuto certamente a tutti quelli che hanno un minimo di sensatezza, sconosciuto, al nostro, perché questo è il vero obiettivo del signore. Beh, non era questo, però. Elevarsi al nostro livello, accostarsi al divino Telma e con ciò cercare di ricavare un briciolo di visibilità e di popolarità. Ma veramente attaccava Marchionne, ma è la stessa cosa per la proprietà transitiva. Sì. È chiaro che se lui qua abbiamo un titolo, vediamo c'è scritto della Valle 2 punti virgolette, Margione, virgola, il mago Telma delle quattro ruote. Quindi è evidente. Poi sempre questo mago, sempre il mago. Tanto c'è questa cosa insulsa, questa gravissima. Questa. Poi gravissima. Dice, quella con Marchionne non è una polemica personale, dice della famiglia Agnelli oggi sono rimasti solo dei ragazzi. Ma essere paragonati a Marchionne... E poi c'è questa cosa cosa significa? Ora è chiaro che il signor della Valle non si rende conto che avvicinare... pulisci la bocca in questo quando parli della Valle. Marchionne al divino Telma significa ovviamente alzarlo all'Empireo, non certo sprofondarlo nella Geenna. Ma no, lui in realtà evidentemente no, senza rendersene conto gli ha fatto un enorme favore. E no, lui invece... ha creato un'aureola, insomma, un'aureola. Ma adesso un uomo di classe, come della Valle, che vede per caso lo Zanni della situazione, questo Zanni parolaio insulso. Non del genere. Intanto comincia col cambiare look. Un attimo solo, Parenzo, che stavi dicendo? No, dico intanto, vabbè, voglio dire, povero Marchionne tirato in causa. È vero, lui non è un mago, questo è vero. Non è un mago, è semplicemente un pirla. Perché uno che inizia già dicendo noi abbiamo fatto, ma no, deve smetterla, basta. Lei è un signore che veste in costume, con costumi opprobriosi, da cinema, da cinecittà. Ma abbiamo detto, tu sei uno Zanni, e per chi non sapesse, ecco, appunto, uno Zanni è un personaggio del teatro. Il Carnevale è finito. Ben noto. Chi è lo Zanni? Chi è lo Zanni? La sua stramparatezza, la sua grassa smisurata ignoranza di cui tu dai prova costante. Giorno intanto dopo mi dia giorno, lei. La tua intanto povera mente lei. Vacilla, intanto, primo. Poggi il piede senza sapere dove, come, quando. Hai capito? Non hai sensatezza, non hai avvedutezza, non capisci neppure chi tu veramente sei, e cioè è comprensibile. Perché tu sei un beneamato 5 puntini. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino! Di? Vino! Se noi diciamo elo, voi rispondete im. Elo? Im! Elo! Im! Mai al mondo verrà la fine, come sempre continuerà. Parenzo, tu... non vuoi capire, togli questa musica che le persone che sono bloccate in autostrada già hanno tanti problemi, se più sentono, tu diciamo vino, tu vuoi, ma questo signore tu qua rifiuti. Fa carnevale 365 giorni all'anno, tu e perché non vedete questo essere insulso in una tazza e lo buttate ovunque, perché tanto lì certo non ha un ruolo, non ha una prospettiva. E i soldi che gli date, dateli ai poveri, a coloro che hanno fame e sete di giustizia, alle vedove, agli orfani. Costui non può alzare l'ascolto, costui non esiste, ve l'abbiamo detto, si tratta di uno Zanni del secondo tipo. Quindi parliamo di un... di un Arlecchino, ecco un scusi, Lei è semplicemente un pirla, o anche di un Pulcinella, certamente non parliamo di Pedrolino, voi sapete che Zanni ce ne sono di due tipi, Pedrolino siamo a livelli alti, il servo curvo, mentre Pulcinella è quello... Parenzo, stai fermo. Avete capito, no? Sì, abbiamo capito. Proviamo a prenderlo sul serio. Della presenza di costume, ecco, un programma che vuole essere serio... È una domanda retorica, la risposta è scontata, non c'è alcun senso. Scusi, non ha doti di alcun genere, la sua mente è vuota. Divino, buttatelo via, buttatelo nel divino. Divino, le posso chiedere una piccola... Senti la profezia, ecco la profezia di Parenzo. Ma no, ma non puoi tirare l'acqua del cesso. No, ma è quello il suo sito primigenio. È giusto che lui si abbarbichi in quel sito, perché di lì proviene e lì ritornerà. È l'Oroburu che ricrea la situazione per il ritorno, per il principio. E quindi è più che giusto che lui si chiuda in quell'ansio. A proposito, Divino, scusi, lei però mi ha letto il comunicato su Della Valle, mi può spiegare un attimo qual è, però lei ha parlato di ciabattino, mi può dire per favore qual è il futuro di Della Valle, per esempio, in politica? Ma innanzitutto noi ci attendiamo sì? Da questo individuo, sì, che non lo sopporto, si ha parlato, si noti, in nostra assenza. Se noi fossimo stati presenti davanti a lui, non avrebbe mai avuto l'ardire di proferire. Lei vuole le scuse? Sì, naturalmente ci attendiamo delle amplissime scuse. Sicuro arriveranno, sicuro. E sarà bene che le presenti. Perché? Questo è il nostro consiglio. Altrimenti? Altrimenti, come si è detto, i nostri uffici legali, di concerto con gli uffici legali del signor Marchionne, decideranno. Ma non ti conosce neanche Marchionne. Gli uffici legali, sappia della Valle che la Nemesi punisce sempre gli stolti. È inevitabile. Ma quale Marchionne? Ti riparlo pure Marchionne. Spargere veleno o idiozie, che poi più o meno è la stessa cosa. Non si può, sì, essere così ubriachi. Senza pagarne lo scotto. Quindi, cioè, qui c'è la fatua. Come? C'è la fattua del divino Telma nei confronti di Della Valle. No, che la Nemesi. È la Nemesi. Noi, sì, naturalmente non ci occupiamo di, sì, di creare problemi a chi che sia. Ma la però, Nemesi, sì, perché è chiaro che quando si viola l'ordine divino, quando sono espressioni sacrileghe, sì, insensate, sì, isteriche, sì, palesemente io di nuovo l'ordine divino, guarda, io adesso gratuite, voglio vedere. Ebbene, costui, ecco, deve presentare le scuse, è il minimo che possa fare. Ecco. E se non lo farà, naturalmente ne pagherà lo scotto. Questo è ovvio. Ecco. Intanto ho violato ancora l'ordine divino, ecco, che non parte più questa cosa dell'acqua. Quanto a questo signore che tenete lì, in questa redazione della Zanzara, continuiamo a non capire quale sia il suo ruolo. Credo, ecco, che quello che chiama l'acqua quando parla, uno vestito da problema. Scusi, quando per concludere, divino, ringraziandolo della sua presenza qui questa sera, la Zanzara, presenza eccezionale come al solito. Una piccola previsioncina su questa, su Berlusconi, cioè, non è che per caso dopo, sì, la sentenza di oggi, ecco, Berlusconi pensa di tornare sui suoi passi e candidarsi? Lo escludiamo tassativamente, tra l'altro questa domanda ci è stata fatta proprio oggi, sì, dal giornalista di una nota agenzia di stampa, ma sì, che ci ha richiesto un'analisi, ma sì, abbiamo detto no, questo è da escludersi. È da escludere. Silvio, sì, Silvio non presenterà la sua candidatura, sì, né direttamente né indirettamente per la presidenza. L'ha detto. Del, sì, Consiglio, il che però non vuol dire naturalmente che, sì, Silvio, sì, esca di scena. Ecco, ma si candiderà in Parlamento, secondo lei, divino? Questo. Ma certamente, assolutamente ovvio. Assolutamente. Questo, questo i giornali e poi dice le cose sui giornali, è ovvio, per tantissime ragioni. E comunque la nostra accurata analisi, sì, al di là di ogni dubbio, conferma che lui rientrerà in Parlamento, ma che non sarà, sì, la prossima legislatura il capo del governo. Ma è scritto su tutti i giornali. In verità, il vero vincitore della prossima pugna, se volete ve lo possiamo, sì, anche dire, ce lo dica, chiaramente vincerà, se no lo diremo più. No, no, volete, ce lo dica. Sentiamo la pugna, sentiamo. La pugna cartacea veniente vedrà un solo vero vincitore, secondo, sì, la nostra, sì, accuratissima analisi. Sì. Sì. Sì. Un solo vincitore, parliamo di movimento, non di sì, piccola, certo, politica. E sarà, secondo, sentiamo, la nostra analisi, che, sì, è come sempre infallibile, sì, e che poggia su solidissimi elementi, sì, è il movimento a 5 Stelle. Beh, sì, ve lo dico. Vabbè, ha detto una stronzata. Gli altri vengono dopo. In termini, è chiaro che il PD è ovvio che prenderà dei voti in più del movimento a 5 Stelle. Sì. Questo va da sé. Però, vabbè, considerando vabbè, che il movimento 5 Stelle in pratica parte da un predello piuttosto modesto, sì, indubbiamente, fatti i bilanci nel beh, stesso credo modo, sì, si vedrà che il vero vincitore è il Movimento 5. Vabbè. Una cosa che dicono tutti da mesi, anziché sentire stronzate. Ma cosa dici? Cosa capisci tu di politica? Ma io non lo so, ma dove le prendete queste cose? Sei un somaro che legge i giornali. Milano è somaro, Naviglio, che legge i giornali. Anche lì. Beh, allora si capiscono tante cose. Certo. Caro divino, grazie, no, grazie. Aspetta, che prego, lo salutiamo. Prego. Basta. Mai dire maia, mai dire maia. Dire maia. Enzo da Roma, buonasera, Enzo. buonasera a tutti. Guardate, io non è che ami particolarmente Berlusconi. Sì, però... Però sono 20 anni che mi sono reso conto che le tenebre hanno... Le tenebre? Sì, perché qui l'illuminismo non ci ha insegnato niente. Come il divino. Sì. E canta e compagnia cantando per Parenzo, non so che cosa siano. Allora? Ecco, mi dispiace che un uomo come Parenzo, che sì, io stimo, reputo una persona molto preparata, abbia il concetto che Berlusconi è colpevole perché è stato condannato. Sì, ma, no, da beh, questo... ma non l'ha detto Parenzo questo, ha detto semplicemente che al di là delle considerazioni politiche, dopo una condanna in primo grado per frode fiscale, secondo lui Berlusconi non si deve ricandidare. Ha detto solo questo, punto e basta. Non ha detto che è colpevole, che deve essere impiccato e che è sicuramente colpevole. Io di tutto il procedimento, di tutto lo sviluppo del processo, non so una bene amata cippa. Nel senso che so quali sono i termini della questione, la frode fiscale, i diritti televisivi, questo francagrama, i soldi occulti, forse, come, quando, perché, ho letto qualcosa della difesa, ho letto qualcosa dell'accusa, però in fondo poi non è che posso commentare una sentenza, però c'è una sentenza che ha evidentemente anche un valore politico per quello che riguarda Berlusconi, non è un deputato qualsiasi, ha capito? C'è qualcuno che però deve per forza avere gli occhi aperti, anche nei momenti, anzi soprattutto nei momenti bui, nei momenti che stiamo vivendo. La magistratura purtroppo sì, sta andando molto, ma molto al di là dei suoi compiti, svilendo ma queste sono considerazioni che sentiamo da 15 anni. Io lo sai che al termine di questa serata, alle 20:43, devo dire una cosa, che non ne posso più di questi commenti. Non ne posso più, sono stanco di questi commenti, la magistratura e questo. Sì, può darsi, sicuramente c'è un accanimento, qualche magistrato si è messo di punta, il dottor De Pasquale sicuramente dopo 10 anni di indagine voleva arrivare a una conclusione, si è messo là come un matto a cercare la condanna, e il PM è normale che cerchi la condanna di qualcuno. Sì, quello che deve fare. È evidente che c'è anche una particolare attenzione nei confronti di Berlusconi, l'ho sempre detto e lo ripeto, su questo non ci sono dubbi, c'è una particolare attenzione di qualche magistrato di quella procura nei confronti di Berlusconi, su questo non c'è minimo dubbio. Dopodiché poi, siccome mi sono... Sì, però non è tutto automatico, che c'è la notizia di reato. Sì, PM nel però non essere ingenuo. È evidente che c'è qualche magistrato di quella procura che si è messo di punta per cercare una condanna di Berlusconi. Ma va benissimo. Questo fa parte. Ma no, ma questo fa parte anche, se vogliamo, della battaglia politica, della battaglia. La giustizia fa. Ma non è grave, tanto non è che si può sparare il processo alle intenzioni, è evidente che però è così, almeno nella mia valutazione è così. C'è qualche... così sarebbe grave. Ma c'è qualche PM che si è messo di punta per cercare una condanna di Berlusconi. Dopodiché, ma poi perché c'è... nessuno dice la stessa cosa dei PM che indagano su Vendola? Ma ho capito, però non ci sono 54.000 indagini su Vendola, ce n'è una che è arrivata alla richiesta di rinvio a giudizio. Su Berlusconi ci sono state tanti processi, tante cose, si è arrivata... Sì, ho capito, adesso non la facciamo lunga su questo, io sto semplicemente dicendo una cosa, non c'è dubbio che ci sia qualche magistrato, siccome i magistrati sono come noi, non è che agiscono come dei robot in base alla notizia di reato, sono come noi, qualche volta agiscono di più, qualche volta agiscono di meno, qualche volta decidono di andare fino in fondo su una cosa, altre volte tralasciano altre, il punto è questo, ci sono dei magistrati che si sono messi di punta, dopodiché poi io mi sono anche stancato di questi discorsi, ormai è finita, è tutto finito. Questi discorsi devono essere lasciati ormai ai difensori, a un privato cittadino che magari se ha voglia si ricandida in Parlamento, se non ha voglia non si ricandida, però insomma mi sono anche stufato di questi discorsi, basta. Berlusconi ieri ha deciso che non si ricandida più, oggi l'hanno condannato, non cambia nulla, deve cambiare pochissimo, è un uomo ormai che deve essere considerato fuori dai giochi politici. Un attimo. Chi è questo? Alan. Kenya. No. Hai letto oggi Libero in prima pagina? Sì, ce l'ho davanti. Certo. Vai a trovare un titolo. Il portavoce del PD Zingaretti si augura la superga juventina. Su Twitter l'assistente del candidato democratico in regione avrebbe scritto sui bianconeri: speriamo dell'incidente aereo su Formello. È un mio amico, tra l'altro. Begli amici. Faccio un appello a una persona che conosco, Andrea Cappelli, l'assistente, il portavoce, capo ufficio stampa, chiamatelo come volete, di Zingaretti. Vedi la differenza? Cioè, la notizia di oggi è che mentre Berlusconi attacca la magistratura su una sentenza di primo grado, noi abbiamo tre personalità. C'è Vendola che dice che se condannato si ritira, sì. Penati che torna a fare il professore alle medie, sì. Cioè, voglio dire, adesso non è che c'è una diversità. Beh, hanno un altro ruolo, hanno un altro ruolo. La cosa di Vendola è una paraculata. E se dovesse essere condannato, io credo che lo farà. Mi auguro. È una paraculata per forzare le mani, è una mossa mediatica. Ma perché è una mossa mediatica? È una mossa mediatica. E comunque, secondo me, è sbagliato. Perché se lui si sente davvero innocente, fatemi sentire Giannino su Vendola. Innanzitutto, Giannino su Vendola, subito. Giannino su Vendola, immediatamente. Giannino su Vendola, subito questa mattina, spettacolare. Sentiamo, via. Vengo anch'io e anche Vendola. È sottoposto a una condanna, no, una richiesta di condanna per 20 mesi per abuso d'ufficio, e dice: se condannato abbandono la politica. Ma perché allora reagiscono dopo che fanno i giustizialisti esattamente come quelli del PDL? Ma perché non dici se l'hai fatto o non l'hai fatto? E allora se l'hai fatto e hai condannato a parole per una vita intera quelli che erano solo nelle tue condizioni, devi sparire subito, altrimenti non fare più il giustizialista. Vendola, vergogna! Hai capito, Oscar? Sì. Sì, no, senti quello che dice Oscar. Impara. Giuseppe da Torino, buonasera. Adesso te buonasera, mi sentite? Vada. Senta, mi permetto umilmente di correggere Giannino, però lui gli ha detto una stronzata, perché comunque Vendola ha professato la sua innocenza. Sì, è vero che l'ha detto, perché Giannino dice: dica se l'ha fatto o non l'ha fatto. In realtà Vendola evidentemente dice che non l'ha fatto. Assolutamente, infatti dice che lui non l'ha fatto assolutamente, non c'è neanche. Sì, però questa storia che uno deve annunciare prima della sentenza, che esce dalla vita politica, se condannato. Decidiamo, infatti lui dice: se io sono condannato in primo grado esco dalla scena politica. Sì, che è un po' forzare la mano nei confronti dei magistrati che devono emettere una sentenza, secondo me. La possiamo leggere sempre come vogliamo, sta di fatto che la posizione. Poi comunque di un politico, se uno si sente innocente, va fino in fondo, perché devi dire rinuncio alla vita politica? Non è che se viene condannato in primo grado con un processo. Ma non è così, perché i tempi della giustizia italiana sono lunghissimi. Ha ragione Parenzo quando dice: tutti e chiunque, se condannati in primo grado, come in un qualsiasi paese europeo e civile del mondo. Comunque, vogliamo fare una scommessa io e lei, Giuseppe. La scommessa è questa: Vendola, non dico anche grazie a questa forzatura, eccetera, però Vendola verrà assolto. In quanto innocente. Sì, certo. Innocente. Certo. E allora non è che possiamo fare il processo di intenzioni. Allora verrà assolto e quindi perché ha comunque innocente lo dice lei, fino ma adesso. Lo dico io, ovviamente. Guardi, io sono su questa vicenda qui. No, Giuseppe, io su questa vicenda qui, tra l'altro, ho sempre difeso Vendola e soprattutto la possibilità da parte di un governatore di nominare chi che sia in qualsiasi posizione. Cioè, se lui si è interessato alla nomina di un medico, ha fatto bene finché la politica controlla le ASL e controlla la medicina. Come no? Sbagliato invece, perché il politico, anzi la storia della sanità, nomina i dirigenti, non i medici. È una cosa di una gravità inaudita se fosse vero, perché allora non ci sarebbe motivo per cui indignarsi. Che ipocrisia. Andrea da Roma, buonasera, scusa, grazie Giuseppe. Andrea da Roma, dobbiamo concludere, altri ascoltatori. Andrea da Roma. Sì, ho capito che dici tu. La prima cosa, Mario Scaverini mi ha detto che i politici... Non capisco nulla, è disturbata la linea. Paolo da Catania. Ciao, senti... Volevo dire una senti cosa, a chi ma... senti a chi, scusi? Ma senti chi, Cruciani, senta, signor Cruciani, volevo no, dire signore, una cosa. Non c'è bisogno, senta, sì. Cruciani, basta, i braccialetti di macramè mi fanno impazzire. Ho capito, scusi. I braccialetti di macramè perché non li fa lei? No, non li faccio io. Sono belli però. Cioè, ho capito, si chiamano Cruciani ma non li faccio io, altrimenti, altrimenti non sarei qui, sarei ricco. Giustamente. Ma volevo dire una cosa, allora io faccio parte di quelle persone che sono sempre stati un po' ignoranti di politica, ma da un po' di tempo ascoltano la vostra trasmissione e altre trasmissioni di Radio 24 e stanno un po' imparando piano piano. Allora? Ho sentito parlare della vicenda di Scajola e Finmeccanica, che avrebbero, si presume che abbiano dato una tangente a, ad esempio, il Brasile per vendere armi praticamente. Allora? D'arma. Ecco, ma cazzo, scusa, oh, pardon, mi è scappato. Ma voglio dire, ma bene, perché c'è, ma ok, ma l'Italia fa bella figura, abbiamo venduto dei pattugliatori, abbiamo impiegato un sacco di gente, e che sarà qualche milioncino di euro che gli abbiamo dato a suo ministro brasiliano? È una teoria, Paolo, è una teoria, lo fanno in tutto il mondo, anche noi paghiamo, oliamo in India, in Brasile, le amministrazioni di altri paesi per farci dare gli appalti, è una teoria, alcuni sostengono addirittura che sia necessario fare una cosa di questo tipo, però insomma poi ci sono le leggi internazionali, ci sono un sacco di cose, Paolo, grazie. Alessandro da Firenze, chiusura. Buonasera. Vada. Senta, io le volevo riprendere un pochino per il discorso degli inviti che fa. Sì. Cioè, le rappresentanti italiane sono queste, allora siamo. Ma chi? Di chi sta parlando? Sto parlando del nostro divino. Ma il divino, ma cosa c'entra? Ma lei ha capito cos'è questa trasmissione? Sì, lo so, voi siete due grandi animali da spettacolo e questo è il successo della trasmissione. E allora che vuole da noi? Insomma, che queste persone siano un pochino, cioè, posso dire, limitate, limitate, veramente non sono limitate per niente. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.